Terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Quando risalì, Don Fabrizio trovò Paolo, il primogenito, il duca di Querceta, che lo aspettava nello studio sul cui divano rosso egli soleva far la siesta. Il giovane aveva raccolto tutto il proprio coraggio e desiderava parlargli. Basso, esile, olivastro, sembrava più anziano di lui. «Volevo chiederti, papà, come dovremo comportarci con Tancredi quando lo rivedremo?» Il padre capì subito e cominciò ad irritarsi. «Che intendi dire? Cosa c'è di cambiato? Ma, papà, certo tu non puoi approvare. È andata a unirsi a quei farbutti che tengono la Sicilia in subbuglio. Queste sono cose che non si fanno!» La gelosia personale, il risentimento del bigotto contro il cugino spregiudicato, del tonto contro il ragazzo di spirito si erano travestiti in argomentazione politica. Don Fabrizio ne fu tanto indignato che non fece neppure sedere il figlio. Meglio far sciocchezze che star tutto il giorno a guardare la cacca dei cavalli. Tancredi mi è più caro di prima. E poi non sono sciocchezze. Se tu potrai farti fare i biglietti di visita con Duca di Querceta sopra, e se quando me ne andrò erediterai 4 soldi, lo dovrai a Tancredi e agli altri come lui. Vai via! Non ti permetto più di parlarmene. Qui comando solo io. Poi si rabbonì e sostituì l'ironia all'ira. Vai, figlio mio, voglio dormire. Vai a parlare di politica con Guiscardo. Vi intenderete bene. E mentre Paolo, raggelato, richiudeva la porta, Don Fabrizio si tolse la redingota e gli stivaletti, fece gemere il divano sotto il proprio peso e si addormentò tranquillo. Quando si risvegliò, il suo cameriere gli recò su un vassoio un giornale e un biglietto. Erano stati inviati da Palermo da suo cognato Malvica con un servo a cavallo. Ancora un po' stordito, il principe aprì la lettera. «Caro Fabrizio, mentre scrivo sono in uno stato di prostrazione estrema. Leggi le terribili notizie che sono sul giornale. I piemontesi sono sbarcati. Siamo tutti perduti. Questa sera stessa io con tutta la famiglia ci rifugeremo sui legni inglesi. Certo, vorrei fare lo stesso. Se lo credi, ti farò riservare qualche posto. Il Signore salvi ancora il nostro amato re. Un abbraccio tuo, Ciccio». Ripiegò il biglietto, se lo pose in tasca e si mise a ridere forte. Quel Malvica era stato sempre un coniglio. Non aveva compreso niente. E adesso tremava e lasciava il palazzo in balia dei servi. Questa volta sì che lo avrebbe ritrovato vuoto. A proposito, bisogna che Paolo vada a stare a Palermo. Case abbandonate in questi momenti sono case perdute. Gliene parlerò a cena. Aprì il giornale. Un atto di pirateria flagrante veniva consumato l'11 maggio mercé lo sbarco di gente armata alla marina di Marsala. Posteriori rapporti hanno chiarito essere la banda disbarcata di circa 800 e comandata da Garibaldi. Appena quei filibustieri ebbero preso terra, evitarono con ogni cura lo scontro delle truppe reali, dirigendosi, per quanto ci viene riferito, a Castelvetrano, minacciando i pacifici cittadini e non risparmiando rapine e devastazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Il nome di Garibaldi lo turbò un poco. Quell'avventuriero, tutto capelli e barba, era un mazziniano puro. Avrebbe combinato dei guai. Ma se il galantuomo lo ha fatto venire qua giù, vuol dire che è sicuro di lui. Lo imbriglieranno. Si rassicurò, si pettinò, si fece rimettere le scarpe e la redingote. Cacciò il giornale in un cassetto. Era quasi l'ora del rosario, ma il salone era ancora vuoto. Sedette su un divano e mentre aspettava notò come il vulcano del soffitto rassomigliasse un po' alle litografie di Garibaldi che aveva visto a Torino. Sorrise. Un connoto. Thank you. Agosto 1860. Gli alberi, ci sono gli alberi! Il grido partito dalla prima delle carrozze percorse a ritroso la fila delle altre quattro, pressoché invisibili nella nuvola di polvere bianca, e ad ognuno degli sportelli volti sudati espressero una soddisfazione stanca. Gli alberi, a dir vero, erano soltanto tre, ed erano degli eucaliptus, i più sbilenchi figli di madre natura. Ma erano anche i primi che si avvistassero da quando alle 6 del mattino la famiglia Salina aveva lasciato Bisacquino. Adesso erano le 11 e per quelle 5 ore non si erano viste che pigre groppe di colline avvampanti di giallo sotto il sole. Mai un albero, mai una goccia d'acqua, sole e polverone. Quegli alberi assetati che si sbracciavano sul cielo sbiancato annunziavano parecchie cose: che si era giunti a meno di 2 ore dal termine del viaggio, che si entrava nelle terre di casa Salina, che si poteva far colazione e forse anche lavarsi la faccia con l'acqua verminosa di un pozzo. 10 minuti dopo si era giunti alla fattoria di Rampinzeri, un enorme fabbricato abitato soltanto durante un mese dell'anno da braccianti, muli ed altro bestiame che vi si radunava per il raccolto. Sulla porta, solidissima ma sfondata, un gattopardo di pietra danzava, benché una sassata gli avesse stroncato proprio le gambe. Accanto al fabbricato un pozzo profondo, vigilato dagli eucaliptus. Tutta la famiglia Salina discese dalle vetture. Il principe, rallegrato dalla prospettiva di giungere presto alla sua donna fugata prediletta. La principessa, irritata ad un tempo ed inerte, cui la serenità del marito però dava ristoro. Le ragazze stanche, i ragazzini eccitati dalla novità e che il caldo non aveva potuto domare. Mademoiselle d'Ombreuil, la governante francese, completamente disfatta. Padre Pirrone, cui l'iniziata lettura del breviario aveva conciliato un sonno che gli aveva fatto sembrare breve il tragitto e che era il più arzillo di tutti, una cameriera e 2 servitori, gente di città irritata dagli aspetti inconsueti della campagna, e Bendicò che, precipitatosi fuori dall'ultima vettura, inveiva contro i suggerimenti funerei delle cornacchie che roteavano basse nella luce. Tutti erano bianchi di polvere fin sulle ciglia, le labbra o le code. Nuvolette biancastre si alzavano attorno alle persone che, giunte alla tappa, si spolveravano l'un l'altra. Tanto più brillava fra il sudiciume la correttezza elegante di Tancredi. Aveva viaggiato a cavallo e, giunto alla fattoria mezz'ora prima della carovana, aveva avuto il tempo di spolverarsi, ripulirsi e cambiare la cravatta bianca. Quando aveva tirato fuori l'acqua dal pozzo a multiusi, si era guardato un momento nello specchio del secchio e si era trovato a posto, con quella benda nera sull'occhio destro che ormai serviva a ricordare più che a curare la ferita al sopracciglio buscata 3 mesi fa ai combattimenti di Palermo, con quell'altro occhio azzurro che sembrava aver assunto l'incarico di esprimere la malizia anche di quello temporaneamente eclissato, col filetto scarlatto al di sopra della cravatta che discretamente alludeva alla camicia rossa che aveva portato. Aiutò la principessa a scendere dalla vettura, spolverò con la manica la tuba dello zio, distribuì caramelle alle cugine e frizzi ai cuginetti, si genuflesse quasi dinanzi al gesuita, ricambiò gli impeti passionali di Bendicò, consolò Mademoiselle d'Ombreuil, prese in giro tutti, incantò tutti. Vicino al pozzo incominciò la colazione. Intorno ondeggiava la campagna funerea, gialla di stoppie, nera di restucce bruciate. Il lamento delle cicale riempiva il cielo. Era come il rantolo della Sicilia arsa che alla fine di agosto aspetta invano la pioggia. Thank you. Un'ora dopo tutti furono di nuovo in cammino, rinfrancati. Benché i cavalli stanchi andassero più adagio ancora, l'ultimo tratto del percorso appariva breve. Il paesaggio, non più sconosciuto, aveva attenuato i propri aspetti sinistri. Si andavano riconoscendo luoghi noti, mete aride di passeggiate passate e di spuntini durante gli anni scorsi. La principessa si era addormentata. Don Fabrizio, solo con lei nell'ampia carrozza, era beato. Mai era stato tanto contento di andare a passare 3 mesi a Donna Fugata quanto lo era adesso in questa fine di agosto 1860. Non soltanto perché di Donna Fugata amasse la casa, la gente, il senso di possesso feudale che in essa era sopravvissuto, ma anche perché, a differenza di altre volte, non aveva alcun rimpianto per le pacifiche serate in osservatorio, per le occasionali visite a Mariannina. Per essere sinceri, lo spettacolo che aveva offerto Palermo negli ultimi 3 mesi lo aveva un po' nauseato. Avrebbe voluto aver l'orgoglio di essere stato il solo ad aver compreso la situazione e ad aver fatto buon viso al Bau Bau in camicia rossa. Ma si era dovuto render conto che la chiaroveggenza non era monopolio di Casa Salina. Tutti i palermitani sembravano felici, tutti, tranne un pugno di minchioni. Malvica, suo cognato, che si era fatto beccare dalla polizia del dittatore e che era rimasto 10 giorni in gattabuia. Suo figlio Paolo, altrettanto malcontento ma più prudente, e che aveva lasciato a Palermo impigliato in chissà quali puerili complotti. Tutti gli altri ostentavano la loro gioia, portavano in giro baveri adorni di coccarde tricolori, facevano cortei da mattina a sera e soprattutto parlavano, concionavano, declamavano. E se magari nei primissimi giorni dell'occupazione tutto questo baccano aveva ricevuto un certo senso di finalità dalle acclamazioni che salutavano i rari feriti che passavano per le vie principali e dai lamenti dei sorci degli agenti della polizia sconfitta che venivano torturati nei vicoli, adesso che i feriti erano guariti e i sorci superstiti si erano arruolati nella nuova polizia, queste carnevalate, delle quali pur riconosceva la necessità inevitabile, gli apparivano sciocche e sciape. Doveva però convenire che tutto ciò era manifestazione superficiale di cattiva educazione. Il fondo delle cose, il trattamento economico e sociale, era soddisfacente, tale quale l'aveva previsto. Don Pietro Russo aveva mantenuto le sue promesse e vicino alla Villa Salina non si era udita neppure una schioppettata. E se nel palazzo di Palermo era stato rubato un grande servizio di porcellana cinese, ciò si doveva soltanto alla balordaggine di Paolo, che lo aveva fatto imballare in 2 ceste che aveva poi lasciate in cortile durante il bombardamento, vero e proprio invito affinché gli imballatori stessi venissero a farlo sparire. I piemontesi, così continuava a chiamarli il principe per rassicurarsi, allo stesso modo che altri li chiamavano garibaldini per esaltarli o garibaldeschi per vituperarli, i piemontesi si erano presentati a lui, se non addirittura col cappello in mano, come era stato predetto, perlomeno con la mano alla visiera di quei loro berrettucci rossi stazzonati e gualciti quanto quelli degli ufficiali borbonici. Preannunziato 24 ore prima da Tancredi, verso il 20 giugno si era presentata a Villa Salina un generale in giacchettino rosso con alamari neri. Seguito dal suo ufficiale di ordinanza, aveva urbanamente chiesto di essere ammesso ad ammirare gli affreschi dei soffitti. Venne accontentato senz'altro, perché il preavviso era stato sufficiente per allontanare da un salotto un ritratto di re Ferdinando II in pompa magna ed a farlo sostituire con una neutrale probatica piscina, operazione che univa i vantaggi estetici a quelli politici. Il generale era uno sveltissimo toscano sui 30 anni, chiacchierone ed alquanto fanfaronesco, ben educato peraltro e simpatico. Si era comportato con il dovuto ossequio, dando financo dell'eccellenza a Don Fabrizio, in netta contraddizione con uno dei primi decreti del dittatore. L'ufficiale di ordinanza, un pivellino di 19 anni, era un conte milanese che affascinò le ragazze con gli stivali lucidi e con la R moscia. Erano venuti accompagnati da Tancredi, che era stato promosso, anzi creato, capitano sul campo, un po' patito per le sofferenze causate dalla sua ferita e che se ne stava lì, rosso vestito ed irresistibile, a mostrare la propria intimità coi vincitori, intimità a base di tu e di mio proprio amico, reciproci, che i continentali prodigavano con fanciullesco fervore e che erano ricambiati da Tancredi, nasalizzati però e resi per Don Fabrizio pieni di sottaciuta ironia. Il principe li aveva accolti dall'alto della propria inespugnabile cortesia, ma da loro era stato davvero divertito e pienamente rassicurato, tanto che 3 giorni dopo i 2 piemontesi erano stati invitati a cena. Ed era stato un bel vedere quello di Carolina seduta al pianoforte che accompagnava il canto del generale, che in omaggio alla Sicilia si era arrischiato al «Vi ravviso o luoghi ameni», mentre Tancredi, con punto, voltava le pagine della partitura come se le stecche non esistessero in questo mondo. Il contino milanese, intanto, curvo su di un sofà, parlava di Zagare a Concetta e le rivelava l'esistenza di Aleardo Aleardi. Essa faceva finta di ascoltare e si rattristava invece per la brutta cera del cugino, che le candele del pianoforte facevano apparire più languida di quel che fosse in realtà. La serata era stata compiutamente idillica e venne seguita da altre egualmente cordiali. Durante una di esse il generale venne pregato di interessarsi affinché l'ordine di espulsione per i gesuiti non venisse applicato a padre Pirrone, che venne dipinto come sovraccarico di anni e malanni. Il generale, che aveva preso in simpatia l'eccellente prete, finse di credere al suo stato miserando, brigò, parlò con amici e politici, e padre Pirrone rimase. Il che confermò sempre più Don Fabrizio nella esattezza delle proprie previsioni. Il generale fu molto utile anche per la questione dei lasciapassare necessari in quei giorni agitati per chi volesse spostarsi. Si dovette in gran parte a lui se anche in quell'anno di rivoluzione la famiglia Salina poté godere della propria villeggiatura. Anche il giovane capitano ottenne una licenza di 1 mese e poté partire insieme agli zii. Il viaggio era durato 3 giorni ed era stato orrendo. La prima notte a Marineo in casa di un notaio amico era stata ancora sopportabile, ma la seconda, in una locandaccia di Prizzi, era stata penosa da passare, distesi in 3 su ciascun letto, insidiati da faune repellenti. La terza a Bisacquino. Non vi erano cimici, ma in compenso Don Fabrizio aveva trovato 13 mosche dentro il bicchiere della granita. Un greve odore di feci esalava tanto dalle strade che dalla stanza dei cantari attigua, e ciò aveva suscitato nel principe sogni penosi. Risvegliatosi ai primissimi albori, immerso nel sudore e nel fetore, non aveva potuto fare a meno di paragonare questo viaggio schifoso alla propria vita, che si era svolta dapprima per pianure ridenti, si era inerpicata poi per scoscese montagne, aveva sgusciato attraverso gole minacciose, per sfociare poi in interminabili ondulazioni di un solo colore, deserte come la disperazione. Adesso si era davvero quasi arrivati. Il volto arguto di Tancredi apparì da dietro il finestrino. «Sì, preparatevi, fra 5 minuti ci siamo!» Tancredi aveva troppo tatto per precedere il principe in paese. Mise il suo cavallo al passo e procedette, riservatissimo, a fianco della prima vettura.